Thank you. a farti aiutare. Signore, già ti avevo un'impia una notte in alta terra. Guardate, forse che se non andasse a lì, se non andasse a pietà da non lasci, c'è per me risale. C'è per me risale, piani, che vai a me, c'è per me risale, mi vuol dire, non vuol essere il giorno giusto. C'è per me risale, la lasca, Guarda lì cosa fa. Guarda lì cosa fa. Thank you.